La situazione qui assume dei contorni drammatici, anche perché la stiamo segnalando da tempo, insomma, anche sotto la dicitura ormai abbastanza riproposta, infermieri senza casa, città senza cure, perché chiaramente l'interesse contrastante di, certo, poter valorizzare un certo tipo di interesse privato sulla casa, ma parliamo anche di turistificazione, di tutta una serie di problemi connessi, poi porta le stesse comunità, residenti, di lavoratori anche essenziali come professionisti, infermieri a trovare una barriera all'ingresso tale che gli impedisce di contribuire alla riproduzione sociale proprio di una città e quindi di dover recarsi altrove o trovare un forte ostacolo all'ingresso, puntare verso altre situazioni o andarsene. Con la vostra non è solo una sensazione, è suffragata anche dai numeri, ad esempio quelli sui concorsi. Purtroppo sì, stiamo constatando un trend che non si risolleva, è drammatico. Parliamo ovviamente di cifre dai 14.000 iscritti del 2016, insomma, fino a quelli che sono gli iscritti odierni, che poi chiaramente non arrivano tutti in fondo, un 1.060 circa, 1.059 per la precisione. Arriviamo con graduatorie di 600-700 persone, ma su quattro aziende, di cui l'AUSL, che è anche particolarmente estesa in termini geografici, quindi è chiaro che è un intake di personale molto, molto limitato. Rispetto al grande fabbisogno che avremo, no? Per invertire anche un po' il discorso della sostenibilità della nostra risposta ai bisogni di salute, ecco. Quanto prende un infermiere al mese? Perché appunto noi invece sappiamo che i prezzi delle case a Bologna sono drasticamente aumentati negli ultimi anni. Facciamo un conto sul turnista H24, che quindi per 6 notti al mese non dorme nel suo letto. Sostanzialmente per da dare un'idea anche del tipo di vita che fa, che poi c'è un impatto sulla condizione abitativa, perché no, dover dividere così vita natural durante la propria condizione abitativa con altre persone, non avere poi i propri spazi, c'è un impatto importante sul tipo di vita del professionista sanitario. Parliamo di 1.900 euro se ci arriva al del turnista, ed è chiaro che una grandissima parte va in affitto se l'affitto lo si trova, perché questo poi anche l'ostacolo è molto forte anche in termini materiali. Ecco, è una questione veramente di mobilità sul lavoro che abbraccia tanti aspetti di diritto alla città. Ci mettiamo le utenze, ci mettiamo le spese, un caro vita di Bologna che comunque si sente molto e capiamo bene l'entità del problema, che poi si affianca a tutto un discorso delle condizioni di lavoro, di come effettivamente troviamo risposta alle criticità nelle aziende. Vediamo annunci di monolocali o bilocali a 800-900 euro. È chiaro che praticamente sarebbe metà dello stipendio che se ne va solo così. Esattamente, esattamente. E vedo che comunque chi cerca il monolocale o trova 800 euro si sente graziato. Questi sono gli ultimi feedback che stiamo avendo. Quindi si sente fortunato di aver trovato a 800 euro un monolocale. Francamente, stiamo parlando di qualcosa che non è più compatibile con un'idea di sostenibilità proprio del lavoro e della vita. I colleghi che lasciano, poi dove vanno? Tornano al sud molti, e senz'altro c'è un aspetto fisiologico di ritorno al sud per tanti professionisti che hanno sempre portato a Bologna le loro competenze dalle regioni del sud. Le migrazioni interne causa lavoro che conosciamo, però non è soltanto un tornare a casa, è un necessariamente dover comparare le due situazioni e preferire di tornare in una situazione che lavorativamente spesso non è che offra neanche delle situazioni semplici o un contesto particolarmente stimolante, ma il controvalore che c'è del doverlo comparare con il costo che della vita che c'è qui e le condizioni di lavoro che si trovano. Uno torna al sud, quel restante dei giovanissimi che invece escono dalla laurea, avendo già un accesso all'informazione molto proficuo coi social, punta direttamente spesso all'estero. Quindi abbiamo anche tantissimi professionisti molto giovani che sostano per un periodo veramente brevissimo in Italia dopo la laurea e poi vanno all'estero. La prospettiva è davvero quella della fuga. Il problema vero è l'attrattività. Se le condizioni di lavoro sono tali da garantirmi una condizione di vita in qualche modo, possiamo dire felice, diciamo emancipata sotto tanti aspetti, è chiaro che il professionista può anche a fare residenzialità nei suoi contesti di lavoro e contribuire a migliorarli, altrimenti lo perdiamo. Le possibili soluzioni, ovviamente immagino un adeguamento salariale, ma immaginate anche case destinate a queste persone? Senz'altro una risposta sistemica è quella che abbiamo più bisogno, no, di avvicinare. Dal punto di vista dell'abitare si deve cercare un insieme di soluzioni, probabilmente sono anche quelle per cui si ragiona in termini generali, quindi ragionare dello sfitto pubblico, cercare di trovare le modalità per metterlo a frutto, specialmente per quei lavoratori che poi, se non arrivano, si finisce per dover chiudere i servizi, dei servizi essenziali che sono alla base, no, proprio della riproduzione sociale. Quindi c'è questo, c'è l'aspetto di calmierare i prezzi, si può, insomma, sappiamo che nella nostra storia normativa c'era l'equo canone, c'erano tante soluzioni, poi sono andate perdute, ma anche di pool di abitazioni, magari che possono, patrimoni aziendali o relativi, ecco, allocare nel tempo con un po' di visione per supportare inizialmente all'ingresso, successivamente con qualcosa di più strutturato, i professionisti che potrebbero voler restare a Bologna. Ecco, lo hanno sempre fatto, avrebbero degli ottimi motivi per farlo e non possono assolutamente più perché non hanno una prospettiva di vita che non sia stata nella stanza, per quanto poi a un certo punto, insomma, una comparazione diventa necessaria.